Tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari, Filippo, Flavio Suardi in redazione, Roberto Scaltriti in regia per questo ultimo appuntamento della settimana con A Tempo di Sport. Scontro frontale, Lega e guerra con la FIGC, la Lega si ribella, Consiglio federale senza di noi, lo scontro è totale. Sono i titoli dei quotidiani sportivi e non di oggi sul boicottaggio odierno della Lega nei confronti della Federcalcio. La Lega non parteciperà al consiglio che si apre attorno alle 14.30, chiede l'intervento del governo, i club di A chiedono di avere un peso diverso e al governo di cambiare leggi vecchie, non va a Roma neanche la Lega di Serie B e ci sono anche nuove prospettive sui contratti dei calciatori con minacce di sciopero che diventano sempre più imminenti. Parleremo di questo con voi all'800 24 0024 e con le vostre telefonate, con i messaggi SMS al 349 238 6666. Ci sono un po' di contributi, anche di dichiarazioni extra scontro Lega FIGC. Parleremo anche un po' di mercato naturalmente, con accenni come sempre pure al Tour de France e magari chissà anche al primo giorno di Mourinho a Real Madrid. Però andiamo con ordine e con priorità, che purtroppo non sono quelle del calcio giocato, come spesso ormai succede nel corso dell'estate per l'Italia. E quindi partiamo dallo scontro totale, come ha titolato oggi il Corriere della Sera. Il pezzo è a firma di Roberto Stracca, che è nostro ospite e che saluto. Buon pomeriggio Roberto, benvenuto. Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Tu parli di rivolta dei padroni dei club del calcio, di rotture con la FIGC, di casus belli determinato dalla riduzione degli extracomunitari. È solo un pretesto questo? Se non ci fosse stata questa decisione da parte della Federcalcio, saremmo arrivati per altre vie alla stessa situazione in cui siamo oggi? Probabilmente sì, guarda, quella degli extracomunitari è una cosa che chiaramente fa parlare, ha fatto arrabbiare molto i presidenti, soprattutto quelli che magari avevano basato la campagna acquisti sull'arrivo di due giocatori extracomunitari che adesso si trovano a congelarne uno. Sicuramente è stato un caso, però sì, il discorso è più ampio, limitarlo solo al fatto che gli extracomunitari sono stati ridotti da 2-1 è fuorviante. C'è un problema di potere, di peso all'interno della Federcalcio e c'è soprattutto una nuova Lega di Serie A, ricordiamoci che dal 1 luglio quella che ormai era da tempo nell'aria, era stato da tempo stabilito, la Lega di Serie A si è separata dalla Lega di Serie B, sì. Quindi prima c'era un organismo che aveva varie realtà, varie anime al suo interno, cioè 42 club, prendiamo quelli che fanno su e giù dalla B alla ex C1, oggi la prima divisione della Lega Pro, potevano avere delle prospettive diverse. Oggi ci sono 20 società, 20 club forti, pensiamo che, eccezione fatta per il Torino e altre piazze, forse storicamente importante come bacino d'utenza, abbiamo tutti i grandi club in Serie A e quindi oggi veramente si può parlare di una Confindustria del calcio che ha mutato le sue prospettive e i suoi interessi. Questi interessi arrivano addirittura a contestare leggi come la Melandri, la legge 91 del 1981, qui rischiamo di entrare molto nello specifico, cerchiamo invece di essere, come dire, divulgativi nei confronti del pubblico per far capire qual è l'obiettivo nella sostanza e soprattutto quali sono i tempi per modificare queste leggi e per concretizzare eventualmente, se poi tutte le parti in causa saranno d'accordo, le intenzioni della Lega. Ma guarda, al di là delle leggi che chiaramente, come dicevi giustamente tu, hanno dei loro tempi perché avranno un iter, secondo me si può riassumere, e anche per spiegare agli ascoltatori e agli appassionati di calcio, sì, che sostanzialmente tutto un pochino cambia da quando si torna alla legge di diritti collettivi sulla TV. Tutto cambia per una questione di soldi, parliamo concretamente, perché prima i club, come si sa, vendevano singolarmente i loro diritti, chi incassava di più, chi incassava di meno, la grande squadra aveva tutto l'interesse a continuare a vincere, stravincere, ad essere famosa nel mondo per avere più soldi, la piccolina cercava di far crescere la sfera di influenza. Oggi siamo tornati alla vendita collettiva. La vendita collettiva frutterà 1 miliardo, che sono tanti soldi, e apriamo una parentesi importante per ricordarlo, in Italia dai soldi della TV, con i soldi della TV si regge tutto il calcio, perché sappiamo che non ci sono gli stadi, non c'è un merchandising sviluppato perché c'è poi il problema della contraffazione, quindi tutto è legato ai soldi. Di questi soldi, per disposizione della legge, una parte molto consistente, un 10%, viene dato a finanziare l'altro calcio. Quindi sono 100 milioni che i club si tolgono, e sappiamo quanto un club ha difficoltà a privarsi di soldi che poi potrebbe usare sul mercato, e per finanziare l'altro calcio. Ora, che cosa succede? Che dopo il 2006 è stato un po' cambiato il meccanismo complesso che regolava le dinamiche di voto all'interno della Federcalcio, dove c'era sostanzialmente il diritto di veto, per cui se non c'era il 90% del consenso della componente non si arrivava ad una decisione, quindi c'era un meccanismo di concertazione, di accordo. Adesso, non essendoci questo, che cosa succede? Che la Lega Serie A ha 3 rappresentanti nel Consiglio federale, sono un 10%, quindi quello che è accaduto sugli extracomunitari è che i club temono che su decisioni importanti, su altre decisioni, possano continuare a non contare nulla. E quindi c'è poi il paradosso che ieri il presidente Beretta ha, un po' citando la famosa frase del costituzionalismo anglosassone, no taxation without representation, che chi paga poi in realtà non decide. Questo è il problema di fondo. Quindi, al di là dell'extracomunitario, al di là del Consiglio federale, c'è che i club di Serie A vogliono avere più peso specifico in tanti argomenti, e soprattutto vogliono, secondo me, secondo quella che è la mia frequentazione di Lega, anche con i pur parlè fuori dai discorsi ufficiali, da cui emergono sempre tante cose importanti. Loro sostanzialmente, siccome sono il motore, sono quelli che alimentano, vogliono che un po' tutti li aiutino, tra virgolette. In che senso? Cioè, loro si sono visti un pochino abbandonati sul discorso della legge degli stadi. Noi sappiamo che è ferma da tempo, c'è chi è più ottimista che dice che è addirittura d'arrivo, a me non risulta. Doveva essere uno dei fiori all'occhiello della candidatura all'europeo, sappiamo com'è andata. Ci sono anche un'altra serie di problemi, prendiamo quello dell'ordine pubblico, dove spesso vengono chiusi gli stadi con mancanza di introiti. Cioè, sostanzialmente le singole società, le grandi società ma come le piccole, vogliono che un pochino tutto il movimento partecipi di quelli che sono la vita, le difficoltà, le peripezie, gli incassi, le perdite dei grandi club. Quindi non solo il discorso è noi possiamo dare 100 milioni l'anno, e poi però sugli stadi ce la dobbiamo vedere da sola, sui problemi dell'ordine pubblico siamo abbandonati. Cioè, siccome noi finanziamo tutto il movimento, si deve procedere tutti nella stessa direzione, e soprattutto noi dobbiamo avere una voce in capitolo importante. Ci sono un po' di sms al 349-238-6666, tra poco iniziamo a smaltirli, poi anche le prime telefonate con qualche minuto di attesa che vi chiedo all'800-24-0024, perché è sempre con noi Roberto Stracca, collega del Corriere della Sera, che sta seguendo le vicende delle ultime ore, degli ultimi giorni, con lo scontro tra Lega e Federcalcio e con una situazione generale che ogni estate sembra sempre peggiore. Roberto, tra i tanti problemi è quello del rischio ormai concreto che oltre 20 club, tra cui alcuni di grande prestigio come Arezzo, Mantova, Rimini e Perugia, il prossimo anno non partecipino più ai campionati professionistici. Peraltro oggi voi, con il pezzo a firma di Alessandro Bocci, ricordate che in Francia e Spagna i club professionistici sono meno di un terzo rispetto ai 132 ora presenti in Italia, in Germania sono meno della metà e gli inglesi si fermano a 92. A cosa può portare questo? Nel senso, possiamo aspettarci che per queste condizioni di estrema necessità i campionati di Lega Pro, ad esempio, vengano ridotti, e magari chissà anche la Serie B, per numero di squadre con tempi abbastanza rapidi? Ma io credo che sia uno scenario molto possibile. Certo, dispiace per quelle piazze che usciranno dal calcio in maniera così violenta, tanti appassionati che sono abituati, che ancora hanno questo rito, sappiamo quanto è difficile per la piccola piazza reggere il confronto con la televisione che ormai allo stesso orario porta dentro le case le grandi partite, quindi spiace per quegli appassionati. Però ecco, dai numeri che hai ricordato tu è evidente che andava fatta una riduzione, perché tenendo conto anche della situazione situazione economica del paese, tenendo conto della difficoltà di molte piccole società, tenendo conto del fatto che dal grande al piccolo in Italia spesso nel calcio si è fatto il tradizionale passo più lungo della gamba, è una situazione inevitabile. Purtroppo si arriva spesso a fare delle riforme, delle riorganizzazioni che sono necessarie e fisiologiche per motivi di forza maggiore, però io credo che una riduzione, e se pensiamo secondo me anche alla stessa Serie A ad oggi non è proprio all'ordine del giorno o nella scaletta dei prossimi lavori, però sappiamo poi quanto si lamentino i nostri allenatori del fatto che si giochi troppo, che un calendario è troppo lungo, che poi con 20 squadre si arriva, quindi si potrebbe arrivare a un giorno a 18 delle partite delle ultime giornate che ci lasciano perplessi. Si potrà arrivare a 18, insomma. Cosa? No, dico, si potrà arrivare, non si sa in che tempi, ma si può pensare anche di arrivare e tornare a 18 squadre, questo volevi dire. Secondo me prima o poi va fatto, perché poi c'è una competitività internazionale che noi dobbiamo salvaguardare delle nostre squadre, sappiamo quanto c'è il discorso di tenere i 3 o 4 club in Champions League, c'è un discorso secondo me che va fatto anche a livello internazionale del giocare troppo, si è molto detto dopo il campionato mondiale appena finito, non abbiamo visto le grandi stelle, però andiamo a vedere una grande stella, un Cristiano Ronaldo o un Messi, quanto gioca rispetto ai suoi omologhi di 10-20 anni fa. Secondo me c'è un problema di inflazione delle partite e di usura dei giocatori con un calcio sempre più fisico. Roberto, ne approfitto della tua presenza per avere un aggiornamento, se sono situazioni insomma che è il caso di aggiornare o se c'è invece una fase di stallo. C'è un nostro ascoltatore che si firma Massimo al 349-238-6666 che chiede notizie sulla tessera del tifoso e se ci sarà l'ennesimo eventuale rinvio all'italiana, soprattutto per capire da te se anche questo è uno dei temi che possono portare poi a un ulteriore conflitto, confronto tra tutte le parti in causa, Lega, Federcalcio, magari anche il governo in seconda istanza. Guarda, sulla testa del tifoso io credo che dopo vari rinvii siamo arrivati che è stata introdotta e credo che a questo punto non ci siano passi indietro. È stata nel passato un ulteriore motivo di frizione, perché non è un mistero che le società l'hanno adottata, ma per bocca dei loro presidenti, dei loro dirigenti, l'hanno dovuto fare, perché è stata tra virgolette un'imposizione, è stato un diktat. Sì. Io credo che quest'anno entrerà in funzione. Personalmente, sia un po' come filosofia, sia perché non credo nel suo utilizzo, non lo ritengo uno strumento che migliorerà la situazione. Secondo me il discorso forse è molto ampio, sì. E magari ci potrebbe essere un approfondimento dedicato a questo, sì, però per rimanere, sì, alla domanda, al momento la tessera del tifoso è obbligatoria per poter accedere agli abbonamenti e quindi poi ogni società, chi l'ha chiamata privilege card, chi l'ha chiamata, sì, in un'altra maniera, però di fatto è in uso, però c'è una forte componente del mondo del calcio che la contesta e non vuole aderire a questo strumento. Ti chiedo un'ultima cosa, ci sono state fra tante posizioni contrastanti quella conciliante con cui tu chiudi poi l'articolo odierno su Corriere della Sera, da parte di Nicchi e Braschi, insomma della componente arbitrale con la Lega di A, ha detto Nicchi stiamo iniziando un bel rapporto di collaborazione e tu chiosi in mezzo alla bufera, non è poco. Com'è in questo caso la situazione, quali sono gli equilibri, perché Collina se n'è andato secondo alcuni con un silenzio un po' pesante attorno alla sua dipartita, nonostante abbia lavorato per anni cercando di dare un impulso diverso al sistema arbitrale, poi dopo tutti, ognuno ha le sue posizioni, le sue idee su quanto ci sia riuscito o meno. Ma guarda, sembra un po' un paradosso che in questo momento l'unica situazione felice, serena, visto che c'è anche un aspro e forte contrasto con l'associazione calciatori, sempre da parte della Lega, è quella con gli arbitri. Adesso è nata proprio nel quadro di questo cambiamento del sistema, con la nascita di una Lega di Serie A, una Can A, quindi ci saranno un tot numero di arbitri che arbitreranno solo in Serie A. E sono tutti contenti, sono tutti felici, io mi permetto di dubitare e credere che questa luna di miele probabilmente finirà al primo rigore o al primo fuorigioco contestato. Però Nicky si dice fiducioso, tra parentesi, quando è nata questa Candy Serie A ha detto ora la Lega l'ha voluta e la difenda anche, perché è chiaro che se poi comincia un tiro al piccione su ogni arbitro, visto che gli arbitri sono contingentati, sono quelli, poi se si cominciano con le varie ricusazioni, quello non va bene, mi viene da pensare chi arbitra possa arbitrare certe partite. Però ripeto, questo succederà dal primo calcio d'inizio con la nuova Coppa Italia o con la Supercoppa del 21 agosto. Per ora con gli arbitri si va d'amore e d'accordo, per quanto possa sembrare paradossale. Perfetto, grazie, buon lavoro, ce ne sarà di certo in questi giorni. A Roberto Stracca, collega del Corriere della Sera, presto. Buon proseguimento. Grazie Roberto, c'è un ascoltatore che attende da qualche minuto, lo coinvolgiamo, poi dopo la pausa per la borsa diversi sms, anche qualche dichiarazione di mercato e non solo. Oggi peraltro ha parlato anche Francesco Totti con dichiarazioni abbastanza importanti. Lillo da Torino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, volevo collegarmi al discorso che facevate parlando un po' dei debiti delle squadre. Volevo sapere se è proprio indispensabile per l'Inter vendere un campione per il fair play. Poi tra l'altro, tra virgolette, vorrei sapere cosa vuol dire proprio fair play. Poi volevo sapere in che stato economicamente è messa l'Inter e poi se è possibile con un elemento... questa è una bella domanda, non è che noi siamo corrente in maniera così specifica della situazione, però sicuramente quando si parla di fair play, l'abbiamo fatto ieri con un collega che è molto preparato del Sole 24 Ore, che è Marco Bellinazzo, che ci accompagna spesso nel corso della stagione. Quando si parla di fair play si pensa a questa scadenza che la UEFA ha dato dal 2012-2013, che prevederà bilanci sani e definiti in maniera molto più rigida e rigorosa rispetto all'attualità. Questo vuol dire che non sarà più concesso l'intervento di magnati come Abramovic, Moratti e tanti altri in Europa e quindi non solo in Italia, per colmare le eventuali perdite di bilancio all'interno del club. Questo vuol dire che non si può arrivare al mercato del 2012, dell'estate 2012, con una situazione tutta da definire e da rimediare, quindi le squadre devono muoversi per tempo. In questo momento l'Inter pensa che per acquistare giocatori che sono non richiesti da Benitez, ma comunque nelle indicazioni generali dello staff tecnico, sia necessario vendere un giocatore almeno di quelli che hanno mercato. Al momento Balotelli è quello che ha più mercato di tutti, poi c'è anche Maicon, si è radunato oggi il Real di Mourinho, ha iniziato la sua stagione, vedremo se poi tornerà a premere per avere il brasiliano dell'Inter. I nomi di Krasic e Drenthe, secondo me, sono solo segnali di nostalgia verso Nedved e Davids, non trovate? Molto simpatica questa considerazione di Paolo da Treviso al 349-238-6666. Ci sono diversi sms e altri ascoltatori all'800-24-00-24. Probabilmente qualcuno di voi vuole parlare anche di Juventus. Walter Juventino dice: per ora non è convinto della campagna acquisti, ha letto di Drenthe in mattinata, sarebbe discreto, ma credo ci voglia un altro tipo di giocatore. Che ne pensate? Beh, sicuramente è un giocatore di grande forza atletica e anche di grandissime qualità. Aveva giocato in europeo nel 2008, era stato fenomenale, ma poi a Real Madrid si è perso come tanti altri. Non è sicuramente un giocatore da squadra di medio livello, è un giocatore di alto profilo. Non ne conosco risvolti di carattere, di personalità, quelli a volte possono incidere nella carriera di un calciatore. È più adatto a giocare come esterno offensivo però che come laterale di difesa. Peraltro la Juventus ha acquistato Martinez per giocare a sinistra dove gioca Drenthe, o dove potrebbe giocare Drenthe, spendendo molto per un giocatore che negli ultimi due anni a sinistra, partendo da sinistra in un altro modulo rispetto a quello con cui giocherà Del Neri, ha disputato 7-8 partite intere al Catania. Poi Marco da Vicenza dice: secondo me Cavani non è l'acquisto ideale per il Napoli, perché una punta di movimento non è quello che serve come primo acquisto alla squadra. Sono abbastanza d'accordo, a meno che al Napoli non abbiano già pronti altri colpi in uscita ed eventualmente poi anche in entrata, perché Cavani si aggiunge giocatori come Lavezzi, Quagliarella e Hamsik, che sono giocatori di grande movimento, di grande esuberanza atletica, di grandi qualità tecniche. Serve però anche un riferimento davanti, un bel pivot, un bel centravantone. Molti ascoltatori in linea all'800 24 00 24. Pietro da Torino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, salve, io sono un tifoso della Juventus. Sì. Sono molto contento per la Juventus che sta nascendo, perché sta comprando giocatori insomma non troppo di nome, però secondo me giusti per i giochi del Neri. Però vorrei che sono un pochino anche stufo di sentire i dirigenti, l'allenatore, la società dire che la Juventus, siamo la Juventus, non ci sono obiettivi irraggiungibili. Io penso che debbano dichiarare l'obiettivo reale, che è quello del quarto posto, e penso che tutti i tifosi saranno anche più tranquilli. E poi volevo chiedere solo un'altra cosa. So che lei, io la seguivo su Sport Italia, e so che lei è un grande esperto di Argentina. Brevemente, cosa ne pensava del nuovo Boca Juniors di Borghi? Grazie. Ah, grazie. Insomma, è una squadra che si sta formando ancora adesso. Poi credo che l'allenatore Borghi sia molto molto adeguato, credo che abbia preso in mano una squadra non facile da organizzare secondo quelli che sono stati i suoi criteri nei club in cui ha allenato, al Colo Colo prima in Cile, poi anche in Argentina, e poi ci sono figure come quella di Riquelme e altre che sono molto pesanti. Adesso non ho la situazione in questo momento aggiornata nei dettagli, però insomma si è passati per Riquelme da una risoluzione di contratto a una ipotesi di contratto quadriennale, quindi Borghi è un grandissimo allenatore, non è il momento migliore degli ultimi anni per rilanciare il Boca, però lui ne ha le qualità. Fulvio dalla provincia di Pesaro, buon pomeriggio. Salve, complimenti come al solito per la vostra trasmissione. Volevo fare una domanda sempre sulla Juventus, visto che sono uno sfegatato juventino sofferente purtroppo per quest'ultimo anno, relativamente a un fatto più tecnico economico, cioè incidenza dall'anno prossimo in poi di uno stadio, il primo stadio italiano, di una squadra italiana di proprietà, cioè l'impatto sul bilancio dal punto di vista economico e finanziario. Grazie, vi ascolto per radio. Sì, questa è una domanda un po' impegnativa per me, che sono giornalista sportivo, non economico. Capisco che il Sole 24 Ore sia un bel riferimento per avere queste indicazioni. Credo, al di là dei dettagli tecnici ed economici, che sia una ottima base da cui ripartire. Non è la soluzione assoluta, e soprattutto bisognerà vedere e capire quanto riusciremo in Italia, partendo dallo stadio, ad acquisire poi tutto l'approccio culturale che c'è negli altri paesi. Io seguo da diversi anni, da 3 anni con Mediaset Premium la Champions League, ho la possibilità, l'opportunità, l'occasione di vedere all'estero come vengono vissute le partite, al di là della retorica, della demagogia, delle banalità, c'è proprio un approccio diverso da parte della gente e c'è l'abitudine a vivere allo stadio. Parliamo anche di una cultura diversa, non so se in Italia, a Torino o a Milano e in altre città, poi la prima cosa, le prime cose che la gente e le famiglie vorranno fare nei momenti di tempo libero sarà andare allo stadio. Non so se questo sarà il momento e se questa sia l'idea poi che hanno i club, o se invece ci sia solo la volontà di avere appunto uno stadio di proprietà sul quale basarsi e su cui poi basare i propri investimenti. Mi sembra molto interessante, anche se non è un dettaglio proprio economico, la proposta della Juventus di dare ai tifosi che lo vogliano un posto firmato e personalizzato all'interno dello stadio. Questa mi sembra una bella idea, poi vedremo, e mi sembra anche una buona idea quella di aver ridotto un po' la capienza, o comunque di averla mantenuta su un buon equilibrio tra il Comunale Olimpico e il delle Alpi, perché la tradizione della Juventus in casa è quella di richiamare pubblico, sì, ma non in un numero così grande come era ad esempio la capienza delle Alpi per tutta la continuità della stagione o dei grandi appuntamenti. Igor dalla provincia di Milano, buon pomeriggio. Sì, ciao, innanzitutto i complimenti a te e la trasmissione. Io volevo fare una considerazione su Balotelli e sapere cosa ne pensasse appunto lei. Io penso che fino a 30 anni fa il sogno di ogni giovane era giocare in Serie A o nell'Inter, nel Milan, nella propria squadra che era quella del cuore da bambino. Ormai secondo me i tempi sono cambiati e il sogno non è più giocare in Serie A e magari guadagnare 2 milioni di euro nella propria squadra del cuore, ma è quello di guadagnare, poi che sia Real Madrid, Manchester United, Barcellona, l'importante è trovare una squadra che ti dia tanti soldi e ti permette di giocare ad alti livelli. Quindi secondo me Balotelli è figlio di un sistema che è cambiato nell'arco degli anni. A parte che bisognerebbe capire, Igor, bisognerebbe capire qual è la squadra del cuore di Balotelli, eh? Sì, forse anche quello sicuramente, però secondo me appunto è proprio cambiato tutto il sistema di pensare. Cioè, una volta c'era appunto il Maldini che il sogno era il Milan, il suo sogno è il Milan, poi insomma anche lui, sicuramente i calciatori non sono mai morti di fame, per l'amor di Dio. Mm. Ma il ragionamento, anche a qualcosina. Questo ragionamento è legato secondo lei al mentalità italiana o lo estende anche all'estero? Perché io penso a Cristiano Ronaldo, ha guadagnato tantissimo, è uno dei giocatori più pagati al mondo, però è andato dal Manchester United al Real Madrid anche per un'ambizione personale, cioè non so se tutti, se possiamo generalizzare in una maniera così evidente. No, infatti, secondo me no. È solo una mentalità italiana. Eh? Ah, sì, beh, potrebbe essere. C'è questa cosa qua, non rinunciare più magari al 1 milione o 2 di euro per rimanere nella squadra dei propri sogni, comunque ripeto, senza guadagnare poco, perché sì, sì, guadagnano tutti tanto. Infatti. Vabbè, vado al Manchester, che problema c'è? Ho il Barcellona, al Real, dove sia comunque squadra di altissimo livello, primo piano, prima fascia, e se posso guadagnare di più, beh, venga ancora. Sì, sì, grazie. Grazie a Igor dalla provincia di Milano. Aggiungo che può essere vero questo in alcuni casi, poi vedremo eventualmente se approfondire quello relativo a Balotelli, non sto parlando di questo nello specifico, può essere vero che ci sia un'ambizione economica, però a volte può essere anche fuorviante per la carriera di un calciatore, soprattutto a livello iniziale o comunque nei primi anni, come in questo caso, come tanti altri di ventenni eccetera. Penso, cambiando completamente ambiente, ai giocatori giovani sudamericani che negli ultimi anni spesso hanno scelto mercati come quello dell'ex Unione Sovietica o addirittura quello del Medio Oriente o dell'Arabia, dove avevano grandi vantaggi dal punto di vista economico ma meno dal punto di vista poi delle prospettive di carriera. Zárate, che è arrivato alla Lazio, ha perso fondamentalmente qualche mese importante della sua carriera, del suo sviluppo, prima di tornare nel calcio europeo, perché ha deciso di andare a giocare in Arabia e insomma in quel calcio molto remunerativo ma totalmente privo di competitività e di indicazioni utili poi per farlo maturare. Quindi credo che questo sia un aspetto molto importante, ma spero che Balotelli e chi lo segue seguano anche questa indicazione, questo indirizzo. Spero che se Balotelli sceglierà di andare al Manchester City non sarà solo perché i sceicchi pagano molto bene l'Inter, molto bene lui e evidentemente di conseguenza anche il suo agente, che si prodiga per trasferire i suoi calciatori, i suoi assistiti di anno in anno con grande frequenza, ma anche perché c'è un allenatore come Mancini che lo conosce, che lo stima, che lo ha seguito, che sa come può lavorare e che dunque può essere utile per farlo maturare in un ambiente come la Premier League, dove c'è un calcio diverso, dove c'è più ritmo, dove c'è una diversa intensità e dunque può completare il suo bagaglio. A questo proposito vi faccio sentire a questo punto quello che ha dichiarato ieri il presidente Moratti sulla situazione di mercato dell'Inter, nello specifico di Mario Balotelli. No, stiamo assolutamente vedendo, tra l'altro ha ripreso molto bene gli allenamenti, con molta serietà. Sappiamo tutte le solite cose, un giocatore di grande talento, richiesto certamente da altre società, stiamo valutando assieme a lui quella che possa essere la soluzione. Questo era il presidente Moratti sulle strade aperte per Mario Balotelli. Quella del Real Madrid oggettivamente a sensazioni mi sembra quella più difficile e meno facile da percorrere, fa comodo sicuramente all'Inter e probabilmente anche a Raiola e dunque a tutte le parti coinvolte che ci siano più squadre inserite in questa gara per arrivare a Balotelli, ma per come Mourinho lo ha gestito e per come hanno lavorato insieme i due in questi 2 anni mi sembra molto difficile che Real possa investire tutti questi soldi per un giocatore così, che peraltro ha un talento formidabile. A proposito dell'Inter, una comunicazione più o meno di servizio, perché Roberto dice e chiede quando si gioca la Supercoppa Europea e a Monte Carlo il 27 di agosto, il venerdì, prima dell'inizio del campionato italiano contro l'Atletico di Madrid. L'Inter giocherà poi in campionato lunedì o al massimo martedì, credo più lunedì sera, per posticipare il suo primo match di Serie A, mentre Filippo da Bitonto si rammarica che nessuno sia intervenuto ieri per commentare o limitare le conseguenze delle dichiarazioni di Mino Raiola su Abete e su tutto il sistema italiano, a differenza di quanto aveva fatto il Barça quando Raiola aveva detto che Guardiola era un enfermo mental e che dunque non era in grado di gestire il suo Ibrahimovic. Siete precisissimi ma comunque simpatici. Mirko ricorda che giustamente il primo stato di proprietà in assoluto è quello della Reggiana, non quello della Juve. Parliamo di club ora ad altissimo livello. Alfredo da Genova dice: speriamo che Drenthe e Melo non si picchino in allenamento. E Pietro di Velletri dice: la faccia del fair play, lo sceicco del Manchester City ci ha speso 93 milioni e mezzo di euro. La Juventus in Europa League il 29 luglio giocherà il match di preliminare contro la vincente tra gli irlandesi dello Shamrock Rovers, primi attualmente in campionato, secondi l'anno scorso, e gli israeliani del Bnei Yehuda, quinti l'anno scorso nel loro torneo nazionale, andata 1-1 in Irlanda. Lorenzo dalla provincia di Verona, buon pomeriggio. Brevemente, perché ci sono anche altri pronti ad intervenire all'800 24 00 24. Lorenzo, benvenuto. Questo nuovo acquisto dell'Hellas, che ha un nome impronunciabile, Kendra Jame, arriva dal Rennes, sembra un fenomeno su cui erano tantissimi club del più alto livello. Eventualmente non lo conoscesse, un pensiero sul Verona e su Giannini, grazie. Ah sì, beh, andiamo con la seconda, nel senso che mi è dispiaciuto da così appassionato di calcio che il Verona in questi anni non sia riuscito a riemergere. Quando ho seguito la Serie B su Sport Italia nel 2005-2006, il Verona dei Ficcadenti con Ada Hilton e altri giocatori, Pulzetti, era una squadra che giocava un bel calcio, c'era grande entusiasmo nonostante i risultati non fossero così costanti. Quest'anno la promozione è stata lì vicina e non è arrivata. Credo che Giannini sia un allenatore che ha entusiasmo e speriamo che possa finalmente trovare l'ambiente dopo l'ultima stagione piuttosto burrascosa, possa ritrovare l'ambiente per continuare a fare cose buone e positive in un club che ha grande prestigio e che in Lega Pro sicuramente non trova la sua collocazione ideale. Alberto da Varese, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Io vorrei trattare due argomenti, uno è il fair play e uno è Balotelli. Sì, velocissimo, per piacere. Per quanto riguarda il fair play, le società al giorno d'oggi non devono più avere un direttore sportivo, ma devono avere un direttore amministrativo finanziario. Tutti e due? Tutti e due no, perché il direttore sportivo fa danni, il direttore finanziario invece molto più. Però il direttore sportivo, il direttore sportivo conosce i giocatori però. Cerca sempre di far spendere la società. Però conosce i giocatori, è importante, sì, quello. Sì, però sarebbe, ecco, una fusione tra un direttore sportivo e un direttore amministrativo. La seconda è quella di Balotelli. Balotelli, sì, per l'Inter diventa una strategia di impresa, perché o Benitez decide di averlo come titolare oppure di averlo nella rosa, perché se lo vuole titolare è un bene aggiunto, ha un valore aggiunto dell'azienda, ma se lo vuole nella rosa e farlo giocare 10 partite all'anno è un danno per l'azienda. A questo punto lo vendo. Sì, è vero, anche perché poi se ci sono stati problemi di equilibri interni l'anno scorso, che l'Inter ha vinto tutto, in cui lui comunque ha avuto il suo spazio come l'aveva avuto anche nell'anno precedente, figuriamoci se poi le cose non andranno così bene o se il suo impiego continuerà a essere limitato come naturalmente lui non auspica e non spera. Andrea dalla provincia di Venezia, poi andiamo sul tour, prego. Buongiorno Massimo, la sua opinione sulla proposta della Lega di Serie A relativamente al tentativo di far cambiare lo status, diciamo, del contratto dei calciatori professionisti. Ho sentito che stanno tentando di farli passare come lavoratori autonomi, credo che sia un passaggio obbligato per la sopravvivenza del nostro calcio. Sì, grazie, questo è vero, nel senso che è una condizione reale quella di un lavoratore autonomo equiparato, come ha scritto oggi qualcuno, a un artista o comunque a un personaggio di spettacolo che lavora per un certo periodo di tempo per un datore di lavoro, ma non è non è dipendente. Poi se da questo poi se vuole arrivare a contratti in cui la parte relativa al rendimento è altissima e sproporzionata rispetto a quella di base minima fissa, qui ci sarà da discutere. Io non faccio il sindacalista e me ne guardo bene, però ripeto, quello che è importante è che se i club chiedono di poter gestire i contratti dei giocatori attraverso percentuali di rendimento molto alte, il calciatore deve essere messo nelle condizioni ideali per poter rendere al massimo. Questo vuol dire che, come abbiamo avuto modo di parlare anche ieri e in questi giorni, ad esempio, se la maggior parte dei club di Serie B, come si è letto, o anche altri club importanti, la stessa Roma che si è letto sta saldando o ha saldato poco fa ancora stipendi pendenti dell'anno scorso, se questo se i pagamenti degli stipendi non avvengono in maniera regolare, se le condizioni di lavoro non sono ottimali, poi lì si crea una situazione molto più difficile da gestire ed è molto più difficile chiedere, pretendere da contratto a un calciatore di lavorare a rendimento e quindi di avere poi il massimo del profitto solo se il rendimento suo e del club è completo. Chiudiamo prima di passare al tour con un'ultima considerazione di Franco da Milano, che dice: 30 anni di Milito, 19 di Balotelli, non sarebbe meglio vendere l'argentino? Si dipende sempre dal mercato che ha un giocatore e vediamo, nel senso che Milito probabilmente ha ottenuto con le sue dichiarazioni post Champions League a Madrid l'aumento che gli interessava, lui e il suo procuratore. Ora sta bene all'Inter e l'Inter crede che sia meno sia più facile vendere Balotelli, mentre Giovanni da Brescia ricorda il passaggio di Cassano dalla Roma al Real, sapendo poi com'è andata. Però tutte le storie sono differenti e è difficile fare questo tipo di confronti. Il Tour de France in chiusura, Piero Augusto Stagi, cosa è successo ieri, soprattutto cosa può succedere oggi? Bentornato. Ciao, intanto ieri lo sappiamo, è tornato alla vittoria Mark Cavendish, 3 vittorie, qualche testata, il suo compagno di squadra Reichel, che a tutti gli effetti era l'ariete della Team Columbia, lo ha fatto a tutti gli effetti prendendo a testate Giulio Aldini, e per questa ragione è stato cacciato dal Tour de France, giustamente peraltro, perché oltre a prendere a testate Giulio Aldini ha veramente ostacolato, ha lavorato un po' di tutti, sia di Tyler Farr che anche del nostro povero Alessandro Petacchi, che hanno dovuto, più che pensare a rincorrere Mark Cavendish, hanno dovuto pensare a rimanere in piedi e non cadere a 70 all'ora. Oggi cosa sta succedendo? C'è una fuga di 18 corridori, siamo a metà gara tra questi corridori nomi grossi, Alessandra Vinokova, Andreas Kloden, e purtroppo c'è anche, dico purtroppo, in chiave maglia verde classifica a punti che l'Italia ha portato a Parigi solo una volta, con Franco Bitossi. In realtà all'epoca la maglia non era neanche verde ma era color arancione, però la classifica a punti c'è da tanti anni. Torushev ha fatto una volata in questa fuga di 18, ha fatto la volata, ha fatto un secondo posto e adesso Petacchi è primo ma a pari punteggio, per il fatto che, e la maglia l'avrebbe sempre Petacchi perché ha vinto 2 tappe, con invece Uscioff una sola. Per il resto la tappa si accenderà con ogni probabilità nel finale sull'ultimo strappo di Mende, battezzato dai francesi come la salita di Laurent Jalabert. Il vantaggio del 18 di testa è solo di 1,54, quindi il gruppo maglia gialla controlla e la gara si dovrebbe infiammare proprio su quest'ultimo strappo, che francamente favorirebbe i corridori scattanti. Diciamo, le vere montagne arriveranno domani, ci sarà una tappa ancora per velocisti e domenica una vera tappa in montagna, poi per il gran finale, ricordiamoci, 2 volte il Tourmalet, che è un po' il simbolo di questo Tour de France, anzi senza un po', è il simbolo del Tour de France 2010, che ha deciso proprio di festeggiare questa montagna pirenaica perché è stata scoperta dal Tour nel lontano 1910. Perfetto. Quindi sono 100 anni di Tourmalet. Perfetto, grazie per Augusto Stagi, naturalmente i tuoi aggiornamenti nel corso dei GR24 anche nell'ambito di questo weekend. A Tempo di Sport torna con Carlo Genta da lunedì alle 14, noi ci ritroviamo poi a fine agosto. Vi lascio, visto che abbiamo parlato molto di fair play, bilanci, con 2 dichiarazioni di 2 giocatori giocatori, anzi una dichiarazione di un giocatore è quella di Totti, che è comunque una bandiera delle ultime rimaste a livello nazionale e internazionale. Spero che comprare la Roma sia qualche sceicco, a patto che abbia a cuore questa squadra. E poi con Jacopo da Vicenza, che ci ricorda giustamente che in tutti questi discorsi non abbiamo considerato che c'è ancora qualcuno che va in un club perché ci tiene, come ad esempio Quagliarella, che è andato a Napoli. Grazie a Roberto Scaltriti in regia, Flavio Suardi in redazione. Buon weekend su Radio 24 da Massimo Callegari.